Firenze, tra i bianchi arabeschi di luna e un coro di dolci campane, io ritorno da te. Tu splendi nel sogno di mille e una notte e il cuore nostalgico batte. Il mio amore dov'è? Santa Maria Novella e Signoria, ogni contrada raccolto i sospiri del cuore. Dove sei tu, Madonna, poesia? Era un poema il tuo parlar d'amor. Canta il calen di maggio, chitarre con un arpeggio, portate il mio messaggio ed un fior. Ditelo che io vaneggio, che io l'amo e non ho il coraggio, che io sono il suo prigioniero d'amor. Santa Maria Novella e Signoria, come ti sento mancare, Madonna poesia. Firenze, per i borghi e le strade dei sogni, perché sola tu m'accompagni sotto il raggio lunare. Ricordi, io t'amo, le dissi in ginocchio, e l'Arno laggiù a Ponte Vecchio sorrideva al passare. Canta il calen di maggio, chitarre con un arpeggio, portate il mio messaggio ed un fior. Ditele che io vaneggio, che io l'amo e non ho coraggio, che io sono il suo prigioniero d'amor. Santa Maria Novella e Signoria, come ti sento mancare, Madonna poesia. Firenze, tra i bianchi arabeschi di luna, tu ci inviti a sognare.